in primo piano. Come accade da vari giorni, le aperture sono davvero diversificate dei vari giornali. Il Sole 24 Ore parte ovviamente dall'economia. Piano ricerca da 10 miliardi, più spazio ai fondi dei privati, distretti tecnologici potenziati. Si concentra sul programma triennale del ministro Gelmini sulla appunto la ricerca per lo sviluppo. Per il Corriere della Sera, immigrati, rivolta in Calabria. Abbiamo sentito nel GR quello che sta succedendo a Rosarno, per la precisione. Obama, io responsabile degli errori. L'apertura di Repubblica, così come La Stampa, punta ancora sull'America, la minaccia sventata, ma dopo una serie di errori clamorosi sul volo Amsterdam-Detroit. La Stampa, errore di tutti ma la colpa è mia. Poi c'è chi punta sulla politica. Bersani è già bollito per Libero. Il tribunale, indagate Di Pietro per il giornale. L'Unità invece, prima di tutto la verità su Cucchi, è una lettera di Enrico Letta del PD a Berlusconi. Cassa integrazione, anno boom per il Messaggero. Insomma, come vedete, i temi sono davvero diversi. Il Fatto invece, in prima pagina, spiavano Prodi e De Gennaro, sismi, i dossier Telecom Serbia contro il professore e le inchieste sull'ex numero uno della polizia. Queste alcune delle aperture dei giornali. Voglio andare subito alla politica, che oggi si concentra nei vari commenti e nelle varie opinioni soprattutto sul PD. Tra i vari titoli che ho citato rapidamente c'è quello più emblematico, più forte, vabbè, di Libero: Bersani è già bollito. Ma il tema del PD, affrontato per esempio da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, è proprio questo. Insomma, la nomina di Emma Bonino, o la candidatura di Emma, l'autocandidatura di Emma Bonino, per il momento non ancora avallata ufficialmente dal PD, è un po' il tema che tiene in discussione il partito. Il leader teme il boicottaggio interno, scrive Francesco Verderami. Fin dalla sua elezione a segretario del PD, Bersani sapeva che a marzo si sarebbe giocato molto, se non tutto. E ora sono diversi gli attori sulla scena. In ballo stavolta non c'è tanto la leadership del partito, bensì il suo futuro. Lo sussurrano dirigenti democratici molto autorevoli alla vigilia di una sfida elettorale che si preannuncia proibitiva, dato che sarà impossibile ripetere il risultato di 5 anni fa, quando il centrosinistra vinse 11 regioni a 2. Il punto è, scrive Verderami, che il PD fatica a costruire l'alternativa proposta da Bersani nei suoi manifesti elettorali. Non sfugge, tra l'altro, il movimentismo di Veltroni, che è tornato a riunire con una certa frequenza il parlamentare Lui Fedeli, né poteva passare inosservata l'operazione di Franceschini con la sua area democratica. Insomma, il PD per Verderami è un momento importante, decisivo, anche con qualche incertezza che rischia di costare cara al suo leader. Il tema, d'altronde, che è sullo sfondo è quello della nomina, se nomina verrà, a candidata alle regionali del Lazio, di Emma Bonino. Io ribadisco per il secondo giorno, a me piacerebbe una sfida tra queste due politiche, Emma Bonino da una parte e Renata Polverini dall'altra. C'è da dire che molti sono anche i commenti. Ieri era Luca Ricolfi sulla Stampa, oggi Filippo Ceccarelli per esempio su Repubblica, a sposare insomma questa possibilità. Quella prima partita per sole donne che archivia la stagione di escort e trans. Bonino, Polverini dunque. E per la prima volta nella storia politica elettorale si intravede una sfida interamente e finalmente al femminile. Lazio per sole donne, con tutto ciò che ne consegue in termini di novità, di buonsenso, di conquiste civili. Meglio tardi che mai, scrive Ceccarelli. Però il sospetto è che alla sfida Polverini-Bonino non si sarebbe mai giunti senza che l'opinione e l'emozione pubblica non fossero state scosse dalle faccende, per così dire, private di Berlusconi e quindi dalla storiaccia di Marrazzo, che di certo si sarebbe anche ripresentato, aveva già pronto un libro dal titolo Missione compiuta. È vero, la democrazia vive anche di questi scatti e in momenti di crisi si potrebbe documentare come dall'Anselmi alla Iotti fino alla Iervolino la risorsa femminile, non necessariamente materna, abbia già costituito l'ultima spiaggia. Ma una competizione elettorale con due sole donne che oltretutto si stimano significa forse qualcosa in più, un sassolino nell'ingranaggio, un seme gettato nel campo delle soluzioni possibili, comunque il segno che si stanno forzando i tradizionali meccanismi di selezione della classe dirigente. Così Scrive Filippo Ceccarelli oggi su Repubblica, c'è da dire che insomma, se da una parte Libero mette il PD, come era il titolo, Bersani è già bollito, con un editoriale sferzante di Peppino Caldarola che dice e che scrive: la barca di Bersani sta andando alla deriva, rischia di infrangersi sugli scogli dopo pochi mesi di navigazione. Addirittura, questo insomma, si parla delle alleanze, delle opposizioni interne, insomma quello che un po' in maniera più sfumata Francesco Verderami sul Corriere della Sera ha scritto. Invece la scelta dell'Unità, come detto, è quella di una lettera, una scelta un po' singolare. La stessa direttrice, Concita De Gregorio, lo scrive, insomma, mettiamo in prima pagina una lettera in rilievo più ampio e anche un'altra lettera, in realtà sono due lettere. La prima è quella che Enrico Letta del PD ha spedito a Silvio Berlusconi. Ripartiamo da qui. Signor Presidente del Consiglio, all'inizio del 2010, che secondo gli auspici potrebbe essere l'anno del dialogo sui grandi temi, mi rivolgo a lei per sottoporre una questione specifica, ma che investe l'interesse generale del Paese. Mi riferisco alla morte di Stefano Cucchi. Ritengo che un nuovo anno non possa cominciare senza elementi di chiarezza sul caso, quella di spingere affinché si possa scoprire come è stato possibile in una democrazia avanzata che un giovane di 30 anni sia entrato vivo in una prigione e sia uscito morto da un ospedale senza spiegazioni, nel silenzio ostinato e arrogante di funzionari pubblici. E poi conclude Enrico Letta questa missiva a Berlusconi: le rinnovo l'invito a iniziare quest'anno impegnandosi in prima persona a sostenere l'accertamento della verità sulla vicenda dolorosa di una famiglia normale. Tutto il resto verrà dopo. E c'è proprio una foto in prima pagina di Stefano Cucchi, il ragazzo che sapete fu arrestato e dopo pochi giorni morì in carcere in circostanze ancora non chiarite, con la sorella Ilaria. In prima pagina, prima di tutto, la verità su Cucchi, e tra l'altro c'è anche un'intervista a Ilaria Cucchi che conferma, insomma, come aveva detto Emma Bonino, l'avevamo proprio annunciato da questi microfoni, che sarebbe disponibile la Bonino a candidare Ilaria Cucchi nella sua lista. Ilaria Cucchi dice: se me lo chiede la Bonino, io ci sono. La seconda lettera che viene messa in rilievo dall'Unità, addirittura è l'apertura di prima pagina del Manifesto, è un evento a suo modo storico, nel senso che domenica ci saranno, a partire da domenica credo, due giorni di sciopero dei lavoratori Mediaset contro la cessione del settore trucco e acconciature. Perché è storico? Perché se confermato sarebbe il primo sciopero nazionale nella storia di Mediaset. Presidente, non ci abbandoni, Mediaset va in onda lo sciopero, così sull'Unità l'apertura del Manifesto, ma come detto addirittura di prima pagina, è una foto di Berlusconi che viene affidato alle mani appunto di una truccatrice. Domani ti strucco, con la lettera in prima pagina del Manifesto: gentile Presidente, siamo un gruppo di lavoratrici del reparto trucco, ricordiamo ancora con emozione e orgoglio gli anni della fondazione del gruppo, la filosofia che abbiamo potuto apprendere direttamente da lei, che ha sempre messo in primo piano la cura dell'immagine, la professionalità come chiave per il successo. Ed ecco qui la decisione di cedere il ramo d'azienda in cui lavoriamo mette a rischio il nostro futuro e il capitale di professionalità, insomma, e quindi la decisione dello sciopero. Per quel che riguarda la politica, si discute molto anche dell'immunità parlamentare, che sembra ritornata in alto nell'agenda dei politici, anche perché ora c'è una proposta non solo di un onorevole del PDL, ma anche di Franca Chiaromonte, che è prima firmataria ed è del PD, è prima firmataria con un collega, appunto Luigi Compagna del PDL. E allora ecco che la stampa va a tratteggiare chi sia Franca Chiaromonte, nata a Napoli il 6 gennaio 1957, la migliorista che vuole il ritorno all'immunità. Quel voto del Parlamento e del partito che allora era il PDS non l'ha mai digerito. Sono 20 anni che ci ripenso e ancora mi incazzo. E quando fu cancellata l'immunità parlamentare, da allora Franca Chiaromonte, che oggi è senatrice del PD, ha deciso di presentare una proposta di legge per reintrodurre l'immunità parlamentare cancellata durante l'era di Tangentopoli. Femminista, garantista, decisamente antigiustizialista, spesso non allineata con la linea ufficiale, che peraltro dice oggi non si capisce nemmeno quale sia, basta guardare le candidature per le regionali, Franca Chiaromonte non ha mai nascosto le sue idee. E su Berlusconi dice: non è possibile che ogni cosa venga riportata a lui. Io non ho mai votato sì a un'autorizzazione a procedere. Penso che i parlamentari vadano garantiti nel loro lavoro, dunque sì all'immunità, ma no al processo breve o ad altre leggi ad personam. Segnalazioni dalla politica, anche questa, sempre sulla stampa rimanendo. Ricordate la vicenda del Turco, Ottaviano Del Turco, arrestato da Presidente della Regione Abruzzo. Un anno e mezzo fa, accusa di aver preso tangenti dall'arredo della sanità abruzzese, arrestato, quindi decaduto, l'Abruzzo che è andato alle elezioni. Un anno e mezzo dopo, secondo Fabio Martini, crollano le accuse a Del Turco. Arrestato un anno e mezzo fa, appunto, per aver preso tangenti. Si ricorda come l'allora procuratore capo Trifuoggi fece questa di Pescara, fece questa dichiarazione: l'abbiamo preso, stavano distruggendo la sanità in Abruzzo, schiacciati da una valanga di prove. Grande l'effetto di quel tintinnar di manette, solo che quando si sono spenti i riflettori per Fabio Martini su questa inchiesta, le parole di Trifuoggi sembravano preludere a un processo così ben istruito da essere rapidamente archiviato. Invece in un anno e mezzo sono state disposte circa un centinaio di rogatorie internazionali alla ricerca di conti esteri e società offshore, ma non un soldo è stato trovato. Il pilastro dell'accusa resta la parola del collaboratore Vincenzo Angelini, il patron delle cliniche abruzzesi. Solo che ora che cosa si è scoperto? Si è scoperto per esempio che c'è un rapporto riservato in cui i carabinieri avevano chiesto l'arresto di Angelini e della moglie. E quanto alla giunta Del Turco, si dimostrava che non aveva favorito le cliniche private, tra cui quelle di Angelini, ma anzi aveva avviato un drastico taglio alle richieste illegittime del loro patron. Dunque, un anno e mezzo dopo, secondo la stampa di questa inchiesta, non è rimasto granché, se non altro degli strali iniziali del procuratore di Pescara Trifuoggi. Voglio abbandonare la politica andando alla cronaca, cominciando da quello che sta succedendo a Rosarno. L'abbiamo sentito anche in GR24, immigrati, una giornata di guerriglia a Rosarno, è addirittura l'apertura del Corriere della Sera, di prima pagina, immigrati, rivolta in Calabria. La rivolta dell'insofferenza, leggo dal Corriere, da Carlo Macri. Stanco dei continui soprusi, delle misere paghe, di vessazioni, insulti di ogni tipo, di agguati a colpi di fucile, il popolo degli immigrati a Rosarno si è ribellato. Due immigrati, questa è la miccia, sono stati feriti da sconosciuti con pallini da caccia, entrambi ricoverati, le condizioni non destano preoccupazioni, ma la notizia ha scatenato l'ira di circa 120 connazionali che hanno, armati di spranghe, bastoni e pietre, hanno iniziato un tiro a bersaglio contro le auto. Le schegge dei vetri hanno ferito all'occhio destro un bambino. Poi la protesta si è trasferita nel centro di Rosarno. Chi sono questi immigrati? Lo spiega bene Attilio Bolzoni su Repubblica. Il popolo degli ultimi. È la rivolta degli ultimi, la rivolta dei neri che vagano per la nostra Italia, quelli che si spostano sempre, che sono in movimento perenne, stagione dopo stagione, mese dopo mese, campo dopo campo, per raccogliere arance, uva, olive, pomodori. Vivono per la terra e vivono nella terra, senza una casa, senza niente. A settembre erano in Sicilia, intorno alle vigne di Marsala. A novembre in Puglia, tra gli ulivi più belli del Mediterraneo. A primavera migreranno in campagna a spezzarsi la schiena negli orti. Oggi qui, nella piana, dove è padrone la mafia più feroce del mondo. Sono ghanesi, sudanesi, ivoriani, seleganesi, vengono dal Togo, dalla Mauritania, dal Congo, ma da anni sono tutti italiani per sopravvivere, resistere, sfamarsi. Ogni giorno riescono a prendere quasi 20 euro. Dicono che sono 3.000, qualche volta diventano 4.000 e forse anche di più. Non hanno documenti, non hanno passato. Solo la giornata conta, la giornata nel giardino di aranci. E qui si sono scatenati per questa rivolta, una notizia... Insomma, monitoreremo ovviamente anche il corso della giornata, sperando che gli animi si calmino, ma la situazione di tensione sociale certo c'è. in primo piano. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: sanità e mala sanità, vi fidate delle strutture mediche italiane? Votando su radio24.it o il sole24ore.com, bisogna dire che per ora il 64% di voi dice sì, ci fidiamo. C'è molta cronaca, molti commenti sulla sanità o mala sanità dopo i casi, soprattutto quelli che fanno più discutere la morte di due neonati all'ospedale riuniti di Foggia. L'ospedale dei neonati morti, il governo invia gli ispettori. Questa è una pagina sul Corriere della Sera, con anche le parole di una delle mamme che hanno perso la propria bambina, vale a dire Giorgia, neonata nata il 18 dicembre scorso e morta un paio di giorni dopo. Una settimana dopo è morto un altro neonato nello stesso reparto. Non ho potuto abbracciarla, trattata come un cane, dice questa mamma in un'intervista ad Angela Balenzano. E l'unità dice addirittura, secondo l'avvocato, in quel reparto, che era un reparto che doveva essere un reparto sterile, addirittura c'era la possibilità di fare entrare i venditori ambulanti di bibite. Insomma, ci saranno inchieste, ci sarà da verificare. Certo che se fosse così in un reparto sterile, una persona che viene dall'esterno, che vende bibite, insomma, non la persona che si presenta nella maniera più sterile possibile, non è proprio indicata. I commenti sono tanti. Devo dire oggi soprattutto a smussare quello che ieri erano i titoli, quando si leggeva anche su Repubblica: disastro mala sanità. Professor Veronesi, Umberto Veronesi, proprio a Repubblica, in un'intervista a Carlo Brambilla, basta accuse ai camici bianchi, la nostra sanità è tra le migliori del mondo. Parte a dire: non vedo la necessità di istituire un garante della salute, come ha chiesto per esempio Ignazio Marino del PD. Il mio parere è che si stia esagerando con questa mala sanità, dice Veronesi. I dati italiani dimostrano che la sanità italiana è una delle migliori del mondo. Avvengono ovunque ogni tanto degli episodi spiacevoli. In Gran Bretagna però, per esempio, sono superiori ai nostri. Per esempio, cosa cambiare, dice Veronesi? Innanzitutto la prevenzione, che è il cardine della buona salute. Poi dobbiamo fare in modo che tutti i medici lavorino a tempo pieno, perché non può esistere un malato di serie A in clinica privata e uno di serie B in ospedale. Terzo, dobbiamo azzerare l'ingerenza della politica. Anche Mario Cervi sul Giornale fa un commento diciamo molto simile. Il titolo è: ma per favore non sparate sui medici. Le invettive contro la mala sanità risuonano quotidianamente nelle polemiche nazionali, come contro la mala giustizia, la mala burocrazia. Però, dice Cervi, non mi sogno di dire che si debba cambiare registro, valutare con indulgenza gli errori. Dico soltanto alcune cose molto semplici. La prima è questa: la sanità nostra si colloca non a livelli infimi di qualità, ma anzi di buon livello professionale, se non ottimo. Secondo, i medici italiani sono bravi. Insomma, questo è anche un po' il tema, anche riformista. In sanità si sbaglia, basta autoflagellarsi. Insomma, ieri sembravano sparati già i titoli dicendo un disastro, una mala sanità. Oggi un po' magari a bocce ferme, un po' anche come siamo fatti noi in questo paese, un po' ci accaldiamo, poi magari ragioniamo un po' di più e si fa un po' retromarcia. Che ne pensate? Avremo un medico che difende i medici accusati ingiustamente, l'associazione che difende i medici accusati ingiustamente, avremo un avvocato invece che segue molte cause di mala sanità in Italia, e questo ne parleremo alle 8.30. Voi intanto votate il sondaggio. Voglio andare al Sole 24 Ore, che oggi torna come ieri, continua questa inchiesta su Startup Italia, vale a dire la segnalazione anche delle aziende, delle eccellenze, dei poli che portano l'Italia a guardare al futuro dal punto di vista imprenditoriale con maggior ottimismo, con maggiore sviluppo, con maggiore entusiasmo verso una possibilità di crescita. Startup Italia oltre la crisi oggi si concentra, con un'intera pagina 2 di Cristina Casadei, su questo tema: olio vegetale, turbine, vecchi motori di nave. Ecco il biodiesel per l'ENI. Sono esperienze molto molto interessanti. Oxon e Sipcam, società sull'orlo del fallimento, che cosa hanno fatto? Si sono convertite alla green economy e hanno così salvato i ricavi. Questo per esempio è una bella storia, sono belle storie di come l'innovazione e la lungimiranza può portare, insomma, a una conversione, a convertire la propria produzione e a guardare al futuro con appunto un maggior ottimismo verso la crescita. Riguardo allo sviluppo e alla crescita, l'apertura, come detto, del quotidiano è su piano ricerca da 10 miliardi. Il piano ricerca che sta mettendo appunto il ministro dell'istruzione con il ministro Gelmini, un piano da 10 miliardi, scrive Eugenio Bruno, per rendere un po' meno lontana Lisbona, intesa come strategia, insomma, perché la strategia di Lisbona prevederebbe che il 3% del PIL sia destinato di ogni paese a ricerca e sviluppo. Ebbene, il piano di Maria Stella Gelmini è quello di portarlo dallo 0,56% attuale allo 0,67% del PIL. Siamo ancora lontani a quel 3%, o come ricorda Il Sole, siamo ancora lontani anche da quell'almeno 2% invocato da Confindustria. Però è un primo passo per aumentare questi fondi destinati alla ricerca e sviluppo. Di raccomandazione al governo, il testo di Confindustria ne conteneva tre: attuare una politica industriale che stimoli le aziende a investire di più, facilitare l'accesso all'innovazione delle piccole e medie imprese, responsabilizzare gli enti pubblici e le università. E questo è il piano che potete leggere sul Sole 24 Ore. Vado alle segnalazioni conclusive. Niente islamici a pulire i nostri uffici. Ieri abbiamo parlato dell'integrazione degli islamici. A Trento ha pensato bene un consigliere della Lega Nord, il capogruppo Alessandro Savoy, a indirizzare al presidente del Consiglio Giovanni Kessler una lettera, che peraltro il presidente del Consiglio ha già, non dico cestinato, ma dire, per carità, non ne terremo neanche conto. Cosa chiede il responsabile, il capogruppo della Lega? Siamo un partito che ha una posizione chiara nei confronti dell'Islam e dunque non ci pare opportuno e sicuro che i lavoratori delle imprese di polizia islamici possano muoversi indisturbati nei nostri uffici, avere accesso ai computer e pulire, vedere i nostri documenti. Vabbè, insomma, niente islamici a pulire i nostri uffici. Questo chiedono in Trentino, no, non in Trentino, a Trento per la verità, con il capogruppo della Lega alla provincia di Trento. L'ultima segnalazione dal Corriere della Sera: coprifuoco di giorno per gli spot TV sulla bellezza. Che sta pensando di fare, che sta facendo Zapatero, il primo ministro spagnolo? In Spagna, chirurgia estetica al bando dalle 6 alle 22. Non ci saranno più in Spagna diseducativi spot pubblicitari di prodotti dimagranti, cliniche estetiche, terapia al botulino. Questo dalle 6 alle 22, cioè su, diciamo, nella fascia del giorno della TV. Ma è interessante anche questo tema. Allora, votate il sondaggio, ne parleremo alle 8:30, sanità e mala sanità, ora GR24.